che io viene lento di vagare, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi sarà una mattinata difficilissima. Dovrò fare uno slalom terrificante fra i luoghi comuni. Già questa mattina ho avuto i primi crampi allo stomaco quando ho sentito dire in televisione: che bello, una vittoria per l'8 marzo, una donna finalmente ha vinto l'Oscar. Ma l'hai visto Art Locker? Sono giorni e giorni che ce lo stanno mandando sui canali Sky, proprio per far capire che avrebbe vinto questa signorina, questa signora anzi, titolata dal fatto che era in contrapposizione con il marito. E questo sarebbe il film fatto da una donna che glorifica le donne, un film massacrante di un pazzo che va a sminare le bombe umane in Iraq. L'unica donna presente è la moglie, zitta, muta. Lui torna a casa dopo aver fatto saltare giustamente un sacco di mine, uomini mina, bambini mina in Iraq. Passa una settimana con questa moglie muta, è talmente schifato e vomitato di questa presenza femminile che preferisce tornare a rischiare di saltare in aria su qualche bomba in Iraq pur di star con la moglie. Oggi tutti a stracciarsi le vesti, finalmente una donna ha vinto l'Oscar. Questo è il primo luogo comune da cui devo naturalmente svicolare. Non nominare l'orripilante festa di oggi, non nominare l'orripilante sottogenere che oggi verrebbe celebrato dalla festa delle gialle mimose, perché non è fatta per le donne questo tipo di festa, non è fatta per le donne che hanno possibilità di discernere la gloria e la meraviglia di essere femmine, ma è fatta per chi ha da riempire argomenti sulla festa della donna. Altro terrificante luogo di comune: si stanno tutti i miei amici riempendo bocca, occhi, orecchie da messaggi, messaggini e post che mi dicono: ma l'hai visto il film di Tim Burton? Che meraviglia, un'assoluta meraviglia. Non ho mai visto un massacro così radicale, così terrificante di uno dei punti forti della mia fanciullezza, che possa esistere ancora la possibilità di sognare mondi irrazionali, cosa che soltanto da bambini è possibile. Nessuno, se sei bambino, ti impedisce di poterlo fare, nessuno cerca di arginare la tua folle irrazionalità finché sei bambino. Quando cresci non puoi più farlo. La crescita è proprio quando qualcuno pone degli argini alla tua irrazionalità. Mi prende Alice e me la fa vedere a 19 anni. Una povera idiota che a 19 anni ritorna nel Paese delle Meraviglie soltanto per evitare di accettare un matrimonio imposto con un farloccone che vorrebbe sposarla. E per fare questa operazione banalissima occorre ritornare nel Paese delle Meraviglie e fare una sorta di rilettura di un videogame o del Signore degli Anelli, mettersi l'armatura, vincere le prove, ammazzare draghi e via dicendo. Beh, oggi questi sono i due luoghi comuni da cui vorrei cercare di svicolare, riportando immediatamente in evidenza, in primo piano, la nostra possibilità di poter sognare mondi irrazionali, di poter tornare ad essere anche noi protagonisti del nostro Paese delle Meraviglie. Vediamo se è possibile di ripercorrere quello che fu il cammino fantastico della piccola Alice, nel delirio di colui che lo osservava, probabilmente la concupiva o la desiderava, o perlomeno voleva essere bambino come lei, un reverendo padre, grande professore di matematica, che passava la parte migliore del suo tempo a immaginare il mondo come lo immaginava di bambini, forse perché lui voleva rimanere bambino. C'è un posto che non ha eguali sulla terra. Si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un cappellaio. E per fortuna io lo sono. Alice, sei tu. Sei tornata. Alice! Alice! Quella? Alice? Sei assolutamente Alice, ti riconoscerei tra mille. Sei in ritardo, per te! Alice è tornata nel Paese delle Meraviglie. Da quando te ne sei andata, la Regina Rossa domina il Paese delle Meraviglie. Trovatela! Aiutaci a raddrizzare il mondo. Tagliatele la testa! Portate un maialino. Un po' di pancetta calda da sollievo ai miei piedi. Smettila! Abbiamo la nostra paladina. 800 24 00 24. altro. Tutte le riletture, tutte le sovrascritture, tutte le reinterpretazioni sono lecite. Non ho punti fermi, non ho assolutamente nulla di scritto in lettere di fuoco nella tavola dell'eternità. Quindi ognuno può rileggere, rivedere, riguardare, ripensare, reinterpretare qualsiasi punto fermo della mia cultura fanciullesca. Ma questa mattina vorrei portarvi a pensare sulla possibilità di essere Alice nel Paese delle Meraviglie secondo il tracciato tradizionale, quello visto all'immaginario del reverendo Duxton, che era il vero nome di quello che noi conosciamo come Lewis Carroll, che è lo scrittore, l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie. E quanto voi ancora siete legato al vostro Paese delle Meraviglie, quanto voi ormai cresciuti, imputriditi, con un piede nella fossa, pensate sia ancora possibile entrare in quella fenditura e sprofondare fino a un paese in cui non esiste, grazie a Dio, possibilità di un filo razionale dei nostri avvenimenti. 800 24 0024. Questa è di Alice la storia, storia fantastica e varia, nel paese delle meraviglie Alice vi porterà, col permesso di mamma e papà. Ho anche sbirciato nel libro di mia sorella, ma è senza figure. A cosa serve un libro senza figure? Che noia! Potrei intrecciare una ghirlanda di fiori, ma vale la pena di far la fatica di raccoglierli. Ed ecco che un coniglio bianco come un giglio. Non voglio essere presuntuoso, io immagino che come me molte delle persone che mi ascoltano si siano approcciati a questo fantastico racconto non attraverso la letteratura, poi magari ci saranno arrivati non leggendo un libro che in sé è anche molto complicato e anche molto difficile nelle interpretazioni, nelle traduzioni. Probabilmente molti avremmo avuto in mano una riduzione del libro di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma ci siamo arrivati attraverso quelli che sono i supporti multimediali adeguati alla nostra connotazione anagrafica. Per qualcuno saranno state senz'altro le fiabe sonore. La fiabe sonore di Alice al Paese Meraviglia erano 4-5 dischi in 45 giri o 4-5 cassette, a seconda dell'età in cui siete entrati in contatto con questo fantastico supporto immaginario. Nella versione CD non so se c'è Alice nel Paese Meraviglia, ma penso di sì. Io comunque quello che vi faccio sentire è da una delle mie vecchie cassette con le quali ho allevato i miei figli. Prendi una tazza di tè. Ah sì, è vero, il tè. Devi accettare una tazza di tè. Volentieri, scusate se vi ho interrotto mentre celebravate il vostro compleanno. Grazie. Compleanno? Ma mia cara bambina, qui non si tratta di un compleanno. Ci mancherebbe. Il nostro è un non compleanno. Un non compleanno? Scusatemi, ma non riesco a capire. È molto semplice, dunque, 30 di conta novembre. No. Né di venerdì, né di Marte, non ci sto. Se tu hai un compleanno, poi chiami anche. Non sa cos'è un non compleanno? Ignoro. Ebbene, io la deluciderò. Noi tutti abbiamo un compleanno ogni anno. Un secondo approccio possibile è quello attraverso la prima lettura della Disney, quella in cartone animato, di Alice nel Paese delle Meraviglie, che è una delle più note, almeno nell'iconografia. Il primo stregatto a cui siamo abituati è quello appunto della Disney. La Disney ha sempre prodotto il film di Tim Burton, e infatti lo stregatto, che è una contaminazione, quel primo stregatto che passa attraverso alcune citazioni di un famoso videogame di un 5-6 anni fa, in cui Alice Oro scende anche lei, 19enne, nel Paese delle Meraviglie, armata di coltello, di cannone, sparafuoco e via dicendo, e anche lei riconquista il Paese delle Meraviglie diventato una sorta di massa putrescente per colpa della cattivissima regina di cuori, e tutti i personaggi della favola sono diventati dei mostri. Io penso che Tim Burton sia molto ispirato a questo videogame, che è stato uno dei luoghi di formazione del mio primo figlio. Alice Mostro è uno dei videogiochi che più mi ha permesso di svolgere la mia funzione di padre nel gestire o nel corroborare quelli che sono i possibili incubi di un ragazzo. Guido, buongiorno. Buongiorno. Telefono da Pisa. Salve, complimenti per la trasmissione. Senta, visto che si parla, diciamo, di fantasie infantili o anche un po' meno infantili, di mondi immaginari, io posso portare questa testimonianza. Quando ero ragazzino mi ricordo che mi colpì moltissimo la figura di Caino, perché dopo il giudizio divino, mi ricordo, consisteva più o meno in una sorta di eterna vita, di eterna veglia, no? Perché Dio dice, gli mette il marchio e dice chiunque ti colpirà verrà colpito da me molto. Io lo interpretai come una sorta di condanna a vivere in eterno. Allora pensai, dico, ma se Caino è vivo in eterno, sarà vivo anche adesso. La logica successiva fu, magari Caino sono io. E cominciai a immaginarmi una serie di storie ambientate in periodi diversi della storia dell'umanità, fino dai tempi delle caverne, fino al medio, ma in genere di ambientazione medievaleggiante. Questo Caino Highlander che si ripropone in tutte le epoche, una cosa del genere? Sì, una cosa del genere. In genere storie così, di tipo molto fantasy, così. Insomma, un Caino immortale che ma quali erano i superpoteri di Caino, a parte prendere a pietrate il fratello? No, l'impossibilità di morire e una certa forza fisica, ecco, così me lo immaginavo. Era la tipica fantasia con la quale mi addormentavo, cioè prima di addormentarmi, trasportarmi in una qualche epoca in forma cainitica e compiere qualche avventura, in genere di tipo non particolarmente commendevole. Se non cito male, Caino era quello che lavorava la terra, faticava. Sì, infatti una cosa che si tace in genere è che, su cui non si porta abbastanza l'attenzione, è il fatto che il motivo della gelosia sta nel fatto che Dio preferisce Abele, perché Abele, pastore, offre offerte cruente a Dio, ossia animali immolati, mentre il povero Caino porta soltanto frutti della terra, cosa che lo rende. Sì, poi c'è il fatto che Caino è stanziale, stabile, l'attività dell'agricoltura significava la conquista e il possesso di un territorio. Abele era un pastore, quindi si muoveva, andava in transumanza. Erano due grandi attività che dividevano il mondo antico. Chi allevava animali e quindi si muoveva, aveva una vita diversa, probabilmente conosceva territori, facile da adattarsi, e Caino, coloro erano legati alla terra, quasi una forma di condanna, incatenati alla terra che dovevano coltivare, e con il sudore della fronte naturalmente. Va bene, auguri Caino, mi piace la sua fantasia. Sentiamo Francesca. Buongiorno. Mi parli del suo Paese delle Meraviglie. Pronto? Sì, sto aspettando notizie. Allora, il mio Paese delle Meraviglie è una grandissima risorsa tuttora, in cui sono in una fase abbastanza, diciamo, avanzata dell'età. Ho intorno a 60 anni. Ma anch'io ho intorno a 60 anni, se no non mi faccia deprimere questa mattinata e vorrei essere lei. No, infatti. Cioè, io sono tanto contento, cioè non sono mai stato così bene. Anche io, perché penso che anche se tante cose così vengono meno. Però no, a me non viene meno proprio niente. Non no, so lei. Vabbè, oddio, qualche capello bianco ce l'avrà, penso. Ecco, io intendo quello. È oggetto di fascino per povere sconsiderate con edipi immarcescibili. Forse per quanto riguarda il sesso maschile sicuramente è un elemento di fascino, per la donna. Vabbè, lei si litinge, ma che vuole, non mi intristisca con il suo pelo bianco. Andiamo avanti col suo Paese delle Meraviglie. Sì, allora, mentre così pensavo, ho ripensato a questo episodio della mia fanciullezza in cui ero convinta di poter volare, ecco, e ho ritrovato però questa sensazione di libertà, di proprio mancanza di limiti, che credo sia appartenga proprio al mondo della fantasia. L'ho ritrovato nell'adolescenza, quando mi immergevo sott'acqua e nuotavo sott'acqua, e cioè questo mondo così misterioso che è sotto l'acqua. Mi faceva rivivere un po' le sensazioni di libertà, di gioia, di leggerezza anche che vivevo appunto nell'infanzia. Quindi credo che poi questo mondo della fantasia non sia così astratto, lontano, ma che possiamo anche viverlo concretamente in qualche modo. E in questo senso pensavo anche che in fondo tanti progressi della scienza, della tecnica, non possono nascere anche da scintille proprio della fantasia. Ma sicuramente ogni progresso dell'umanità nasce da una mente folle, una mente non strutturata in maniera ordinaria. Se non ci fossero folli, se non ci fossero persone con delle particolarità cerebrali, l'ho visto ieri sera in un bellissimo documentario su Karen TV che parlava appunto dei geni autistici, non ci sarebbe stato assolutamente nessun progresso della scienza. Einstein era una persona che aveva, secondo la norma, alcune particolarità nelle sue connessioni cerebrali, ma un'infinità di altri scienziati. Quindi è sempre l'elemento di follia che crea progresso all'umanità. L'uomo che appunto è come Caino, che zappa la terra, sta a testa bassa e non guarda al di là del suo naso, naturalmente non procurerà fantasiose derive rispetto al suo status. Grazie Francesca. Ah, bene, bene, bene. Questa volta voglio fare le cose a modo. Prendo la chiavetta dal tavolino, apro la porticina, mangio un pezzetto di fungo. Meno male che me ne è rimasto un pezzetto in tasca. Ecco che rimpicciolisco. Controlliamo la statura. 30 centimetri, ci passo. E Alice, contenta, infilò la porticina che conduceva al giardino. Finalmente! È da questa mattina che cerco di arrivarci. Che bel giardino! Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno a voi. Presento Silvana De Mari, se ci fosse bisogno, ma visto che ormai è un ospite così ricorrente alla nostra trasmissione, sarà conosciuta a tutti. È la scrittrice fantasy tradotta italiana, maggiormente tradotta in tutto il mondo, ma anche abbiamo sentito in altri suoi racconti, medico e psicoterapeuta. Tra i suoi ultimi libri pubblicati cito Il drago come realtà sul significato storico delle fiabe Salani, e l'ultimo è un saggio sulla morte contenuto nella raccolta racconti intitolata Cavaliere, la strega, la morte e il diavolo, uscita con Lindau. Silvana De Mari, questa mattina sto cercando di fare un'operazione folle e tipicamente alicesca, cercando di andare a sondare e scandagliare quanto rimane del paese meraviglie nella mente dei miei ascoltatori. Lei ha visto il film di Tim Burton? Sì, l'ho visto. Lei cosa ne pensa? Non ha detto che dobbiamo avere lo stesso punto di vista? Penso che posso dirlo dopo aver parlato di Alice. Allora parliamo di Alice, poi alla fine lo diciamo. Così non perché c'è una differenza tra le due Alice, credo che sia molto bello parlarne. Per inciso, Alice, vi ringrazio molto di avermi di nuovo invitato, tra l'altro di parlare di Alice, che è una fiaba a cui io devo due personaggi, il gatto con gli occhi verdi degli ultimi incantesimi e il gatto con gli occhi d'oro, il gatto degli occhi d'oro, questi gatti che poi scompaiono lasciando solo non il suo viso ma lo scintillio dei loro occhi. Come gli stregatti praticamente. È come lo stregatto, quindi devo molto. La teoria sarebbe che nelle grandi storie fantastiche c'è anche la realtà storica. Per inciso, mi fermo un attimo, anche nella superstizione, perché nella traduzione italiana, nel pezzetto che lei ha fatto sentire, è citato un proverbio: di Venere e di Marte non ci si sposa, non si parte, non si comincia un'arte. Per inciso, c'è la realtà storica anche lì dentro, ci ricorda un episodio talmente terribile da essere messo sullo stesso piano della crocifissione, venerdì, crocifissione di Gesù Cristo, martedì 29 maggio 1453, crollo di Costantinopoli viene presa. Quindi anche nelle cose più apparentemente senza senso, in realtà la realtà. Beh, io sono stato educato da bambino con questa, mio padre non faceva nulla il martedì e il venerdì, non si cominciava mai niente a casa. E ancora ne sono condizionato ancora molto. Certo. Quindi dopo l'illuminismo compare il romanzo fantastico, che prima non c'era, perché la fiaba nasce per poter raccontare qualcosa al bambino perché scivoli nel sonno, e quindi la fiaba è un racconto abbastanza breve da poter essere raccontato nello spazio di una sera. Il romanzo fantastico necessita di qualcuno che sappia leggere e vada avanti capitolo dopo capitolo. Nessuno può raccontare Pinocchio o Harry Potter nello spazio di una sera. Dove ci sono le altissime tirature, il best seller è completamente imprevedibile, e tirature che resistono dopo decenni, lì c'è l'immaginario collettivo, lì dentro abbiamo messo i mostri, perché da qualche parte i mostri dovevamo mettere, quindi queste storie sono bellissime, ma sono anche terribili, perché contengono i nostri mostri. Quindi noi abbiamo Alice nel Paese delle Meraviglie, Pinocchio, Peter Pan e poi il Piccolo Principe. Questi sono i quattro stravincitori della gara dei bestseller, and the winner is. Sono tutte storie, una più allegra dell'altra. Primo, notiamo la scomparsa. Non credo che sia un caso questo, alla fine ricompongono un universo necessario questi quattro racconti. Si compongono anche un universo dove compaiono luoghi che prima non c'erano, erano molto meno importanti, che sono la prigione che compare in Pinocchio, il manicomio, Alice, il sanatorio, l'ospedale, Peter Pan. E poi si arriva direttamente al cimitero, il piccolo principe. La follia è molto presente in Alice, questo racconto è angosciante, ma anche Peter Pan. Ti racconta di Peter Pan nel primo capitolo, si dicevano di lui cose terribili, si diceva che quando i bambini morivano, Peter li accompagnava nel primo tratto di strada perché non ne fossero terrorizzati. Peter Pan è l'angelo della morte, morto in ospedale. Anche questo ce lo dico nel primo capitolo. Psicagogo, sì. I sentieri dell'isola che non c'erano, la stessa forma del grafico della febbre dei letti in ospedale. Mentre Alice, anche Alice cade, Alice corre sull'erba, cosa c'è sotto l'erba? La terra. Alice cade in un tunnel verticale che è la tana del gran coniglio. Alice dove sta andando? Potrebbe stare andando sottoterra, in effetti le metafore di morte nel mondo delle meraviglie sono notevoli, ma Alice alla fine torna indietro, contrariamente a Peter Pan, quindi forse un altro luogo. La parola follia viene ripetuta in continuazione. Il manicomio, come l'ospedale, compare in sede post-illuminista. Prima del serio illuminismo non esisteva, la gente moriva della follia a casa propria. Gli ospedali certo esistevano allo spirito di Audubon, ma erano luoghi per i vagabondi. E per il resto la gente moriva a casa propria, con mamma vicino. Lo stesso discorso vale per la follia. La follia compare in maniera importante in epoca post-illuminista. Prima era giustificata in maniera religiosa, gli invasati, eccetera, gli indemoniati, ma soprattutto la malattia mentale e il deficit cognitivo erano giustificati dicendo che queste persone erano toccate dalla mano di Dio. Senta Silvana e Mari, possiamo fermarci solo un istante, devo dare le informazioni della borsa, ci fermiamo proprio nella questa analisi della follia, che è un punto di discrimine fatale tra le condanne della società e le attese di qualcosa che possa gettare un occhio in realtà che l'uomo raziocinante non riesce a cogliere. Melog 2.0. Ma lei è un gatto! Uno stregatto astratto! Volevo soltanto chiederle che strada devo prendere. Beh, tutto dipende da dove vuoi andare. Oh, veramente importa poco, purché io riesco. Beh, allora importa poco che strada prendi. Se vuoi proprio saperlo, è andato da quella parte. Chi? Il bianconiglio. Davvero? Davvero cosa? È andato di là. Ma chi? Oh, il coniglio bianco. Quale coniglio? Ma non ha detto lei poco fa, cioè... Oh, cielo! Se io cercassi un bianconiglio, lo chiederei al cappellaio matto. Al cappellaio matto? In quella direzione. Però guarda che gli mancano diversi... Silvana De Mare, ci eravamo interrotti prima dell'informazione della borsa sul concetto di follia e ci ritroviamo sul cappellaio matto. Certo. Direi che Alice nel Paese delle Meraviglie gronda follia, ed è una follia separata dal mondo dei non folli da una linea nettissima. Nel mondo delle meraviglie non ci sono linee logiche, nel mondo normale non ci sono linee di follia, non sarebbero state tollerate. Adesso non vorrei dare un'idea idillica del mondo rurale prima dell'Ottocento, era un mondo durissimo, dove arrivavano le cavallette, c'era stata la siccità, tutti crepavano di fame, chi si era visto, si è visto. Ma ci sono state delle linee di disumanizzazione nell'urbanizzazione forzata, nell'industrializzazione, che prima non c'erano. E si è creata molta più follia. La malattia mentale non è come la statura, il colore degli occhi. Io compenso, scompenso a seconda di quello che mi circonda. Nel momento in cui sono in un mondo dove per me è più facile vivere, ci sono poche regole da seguire e sono regole elastiche, per me è più facile non scompensare. In un mondo rurale, la persona che ha deficit mentale, le persone che avevano deficit mentali erano molto più numerose, ci sono intere categorie di malattie come l'ipotiroidismo, i postumi di meningite che sono scomparse, ma se una persona non era molto intelligente, detto in termini brutali, vabbè, lo si metteva a guardare le galline, a pelare. Aveva una sua funzione comunque, poteva esatto. essere utile in effetti. Esatto, sì. Riusciva a essere inserito. Chi aveva addirittura linee di autismo, di schizofrenia, per cui si relazionava male agli esseri umani, ma queste persone si relazionano molto più facilmente. Per la pastorizia era perfetto, figuriamoci. Esatto, come aspect therapy, lo mandavano a fare in giro con le capre e le vacche, e in questo in qualche maniera se la cavava. Non solo, ma lo scemo del villaggio, il pazzo del villaggio e il mendicante erano figure strutturali che facevano comunque parte del tessuto sociale, non erano figure trasgressive. Inoltre le famiglie erano patriarcali, doveva essere un castigo di Dio convivere con tutte queste cognate, tutto quello che volete, ma la persona che aveva bisogno di un'occhiata, che fosse l'anziano, il bambino o lo zio non tanto intelligente, un po' pazzerello, bene o male in queste grosse famiglie ci si trova sempre. In più, roba fondamentale che nessuno si ricorda mai, ma la nostra mente, noi non siamo puri spiriti, è incarnata. La gente stava al sole, camminava al sole, i poveri erano giustamente abbronzati, cioè avevano la serotonina alta. Noi ci siamo allontanati dal sole, noi siamo tutti depressi perché abbiamo la serotonina bassa. Quando andiamo nei posti dove la gente cammina al sole, che siano le zone rurali dell'India, dell'Africa o del Messico, tutti sorridono, non sono depressi perché hanno comunque la serotonina alta. Quindi noi ci siamo allontanati dal sole e ci è crollata la serotonina. Ci siamo allontanati da Dio. Io non ho ancora deciso se Dio esiste o no, se poi raggiungo delle notizie certe ve lo faccio sapere. Ma quello di cui sono certa... Di solito ci si fida soltanto delle proprie esperienze in questo caso, sì. Quello che ci dicono gli altri conta poco. Esatto, va bene, anche questo è vero, ma questa è un'informazione scientifica, che quando noi crediamo in Dio abbiamo le endorfine alte, se siamo inseriti in un mondo di credenti abbiamo endorfine e serotonina alta, quindi c'era un compenso, la gente si trova sradicata dalla propria parrocchia, allontanata dal sole, inserita in posti orrendi, noi abbiamo perso tre cose, la religione, il sole e la bellezza, perché anche se sto crepando di fame in campagna almeno vedo un tramonto e vedo un albero, ma se io entro in una miniera o in una fabbrica prima che il sole sorga, esco dopo che il sole è tramontato, non solo perdo la luce del sole ma sono anche inserito in posti brutti. Aveva ragione Tolkien, una delle cause della disumanizzazione progressiva è la perdita della bellezza. Quindi scusi Silvana De Mari, sto riflettendo mentre l'ascolto parlare, quella che è la media esistenza di un essere metropolitano che esce di casa la mattina, si chiude in un ufficio, in un luogo di lavoro, ritorna la sera e nei periodi in cui le giornate sono più corte in realtà non vede mai il sole, perché a me capitava soprattutto quando facevo questa trasmissione la mattina, uscivo a casa che era notte, tornavo la sera che era notte, non vedevo mai il sole, vivevo in luce artificiale. Quindi in realtà per me il Paese delle Meraviglie era improponibile, inesistente, lo creammene uno interiore, probabilmente per questo mi divertivo a raccontare Fandonia alla radio. Ma è uno dei motivi di accelerazione dell'impossibilità di follia, proprio questa sorta di pallida esistenza fatta in luoghi brutti. Assolutamente sì, noi non ci rendiamo conto, il nostro fisico ha delle strepitose capacità di adattamento, noi ci rendiamo conto dopo anni e siccome ci adattiamo noi non ci rendiamo conto della causa del nostro malessere, ma consiglio becero da medico, voi camminate un'ora al giorno alla luce del sole, anche d'inverno gli ultravioletti ci sono, senza occhiali perché la luce del sole deve anche raggiungere la vostra retina, se avete gli occhi chiari mettete un berrettino e vedete come il vostro umore cambia come nessuno ha più bisogno del Prozac. Sentiamo Giovanni. Giovanni. Buongiorno Luca, io avrei una domanda per te e la sua ospite, vorrei sapere quanto ha influito secondo voi appunto l'assunzione di questo fungo che in realtà poi esiste una libera vendita in Olanda per esempio e si chiamano funghi allucinogeni, il principio attivo di questo fungo allucinogeno crea un distaccamento della retina e quindi dà assuefazione e allucinazioni del tipo visivo come per esempio avere una diversa percezione della grandezza delle cose. Cioè, secondo me ha influito tantissimo nell'elaborazione poi dello scritto stesso, però vorrei sapere anche la vostra opinione. Quindi, lei, il reverendo autore di Alice, aveva cognizioni di tipo scientifico su funghi allucinogeni, il fungo che fa crescere e rimpicciolisce un fungo allucinogeno. Silvana De Mari, ha qualcosa da aggiungere su questo? Sì, c'erano gli studi che stavano arrivando in quel periodo sulle foglie di coca e su questi funghi, tra l'altro le foglie di coca poi le userà anche Freud, che tra l'altro dalle foglie di coca derivano anche tutti i nostri anestetici locali, la nocaina, la xilocaina, sono tutte cose che sono entrate anche nella nostra farmacopea, senz'altro sono tutte situazioni di dissociazione della realtà. Mi fermo un attimo per chiarire due cose. Primo, la differenza che passa tra nevrosi e psicosi. Il nevrotico ha una percezione corretta della realtà ma non gli piace, lo psicotico ha una percezione alterata, quindi lo psicotico pensa che 2 più 2 faccia 5, il nevrotico sa che fa 4 ma non gli piace. A questi due si contrappone il saggio e qui arriviamo poi a Friedrich Barton. Il saggio sa che noi non possiamo scegliere quello che la vita ci mette davanti, ma possiamo scegliere come affrontarlo. Qualsiasi cosa la vita ci metta davanti, io posso scegliere come affrontarlo, ma devo essermi costruito la mia saggezza. Per inciso, è molto più facile, come lei ha detto prima, deragliare in ambiente metropolitano, dove sto al buio, ho l'ossessione dell'orologio, l'orologio del cappellaio matto. Prima la gente si svegliava quando c'era la luce, andava a letto quando c'era il buio. Quanti dei nostri scompensi... La deprivazione olfattiva trovo che sia qualcosa di veramente forte. Non sentire più gli odori dei luoghi, per me, esatto, è una limitazione estrema. Quindi sono l'inquinamento olfattivo e l'inquinamento acustico. Poi c'è l'orologio. Quante volte abbiamo degli scatti di irritazione perché siamo in ritardo? Nel momento in cui siamo in ritardo non troviamo le chiavi della macchina. Tutte cose dove c'è questo orologio che incombe. Le regole dell'Ottocento sono enormi e sono molto più complesse di quelle del Settecento. Tanto più facile la vita, tanto meno la mia mente deraglia. Se continuo a avere troppe regole, poi ci sono tutte le regole della sessuofobia che si aggiungono nell'Ottocento, che prima non c'erano, perché siccome finalmente, per fortuna siamo stati bravi, è calata la mortalità infantile, bisogna calare la natalità e quindi non bisogna che gli uomini si eccitino. Per cui il Decamerone potrebbe essere stato scritto nell'Ottocento, giammai. E sono regole che si aggiungono, anche perché giustamente la borghesia, che è gente che è nata dal popolo, deve differenziarsi dal popolo, perché altrimenti si confonderebbe. Questo non a caso in quell'epoca nasce il concetto di isteria femminile come qualcosa da curare e guarire tecnicamente, tecnologicamente. Assolutamente. Quindi noi abbiamo questa distinzione spaventosa tra il mondo della follia e bisogna scegliere o stai nell'uno o stai nell'altro. Un'ultima cosa prima di passare al film di Tim Burton, per curiosità, come funzionavano i manicomi italiani? Forse siamo stati gli ultimi della classe, ma non è che negli altri paesi funzionassero molto meglio, magari gli altri sono migliorati un po' prima. Bastava la denuncia di un'unica persona. Poteva essere mia suocera che mi odia, o mia nuora che mi odia, o mio marito che l'amante, il vicino di casa con cui litigato, un'unica persona. Venivano i carabinieri a prenderti, venivi portato in manicomio dove restavi in osservazione un mese. E diventavi matto, naturalmente. Chi di noi non da fuori di matto, preso, tolto, messo lì, io da fare o andare a casa? Ma io penso quante situazioni patrimoniali, quante successioni sono state risolte mettendo il matto in manicomio. Melog 2.0. Decreto 42. Tutte le persone più alte di un chilometro debbono lasciare immediatamente la corte. Io non sono alta un chilometro e non me ne vado. Mi spiace, ma il decreto 42. E quanto a voi, maestate? Maestà. Oh, maestà, poi. Ah, non siete una regina. Non siete che una grassa, pomposa, bisbetica, vecchia. Tiranna. Che? Che cosa stavi dicendo, carina? Semplicemente che siete una grassa, pomposa, bisbetica, vecchia tiranna. Decapitatela! Decapitatela! Il decreto interpretativo della regina di cuore era che Alice era troppo alta e quindi doveva essere decapitata, doveva essere accorciata. 800240024, stiamo calandoci nel Paese delle Meraviglie come luogo parallelo che tutti abbiamo lambito, forse in altre epoche, forse in altre età, forse in altri momenti della nostra vita. Nostra vita che, come ci sta dicendo il nostro ospite Silvana De Mari, che è una scrittrice di genere fantasy, ma anche una profonda conoscitrice degli aspetti clinici e biologici che determinano e condizionano o sono il riflesso negativo di nostre fantasie, ci dice che viviamo in un mondo troppo buio, in un mondo troppo assatanato dall'orologio, appunto, del bianconiglio, per cui il Paese delle Meraviglie sarà sempre lontano finché non ci decideremo a buttarci anche noi in quel buco sotto l'erba. Sentiamo Livo. Livo, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Seguo sempre con la vostra trasmissione, la sua trasmissione. A proposito del Paese delle Meraviglie, questa è una mia naturalmente idea, opinione, il nostro modello di vita lo persegue questo Paese delle Meraviglie, ma resta tale, cioè un paese da favola, in quanto sono convinto, ed è questo forse il dato basilare, cioè questo nostro modello di vita si basa sul culto delle nullità. Cioè io faccio riferimento, non sono potuto intervenire in trasmissione, ma lei la trasmissione precedente parlava di creatività e di arte, manca effettivamente il valore della persona e il valore della capacità della persona. Lei ce l'ha in tutti i mezzi di comunicazione, soprattutto evidenziano questo culto delle nullità, ed è questo dove ci porterà la mia domanda. Grazie. Dove ci porterà non... non è un problema che mi pongo esattamente. Chiaro, viviamo in un grande meccanismo di amplificazione di inesistenze, di un paese fittizio che nulla ha a che fare con il Paese delle Meraviglie, e tanto meno ha a che fare col Paese delle Meraviglie, e tanto più mostra e allucina uno pseudo Paese delle Meraviglie, che altro non è che una visione distorta, è come se fosse il pallido riflesso. Il vero Paese delle Meraviglie nel tutto non è palese, è un paese nascosto. Io la vedo così, poi mi dirà Silvana De Mari se è giusto. È un paese che si condivide con pochissime persone, non puoi condividere con l'umanità, magari l'umanità stessa ha possibilità di entrare nel Paese Meraviglie, ma deve esserci un circolo ristretto, l'idea di una sorta, non voglio dire setta, è una brutta parola, di persone elette, scelte sul filo sottile della tua follia, della propria personale follia. Le persone condividono, che accettano per alcuni momenti di mangiare con te il fungo che rimpicciolisce o ingrandisce, o nel mio caso di berti un margarita assieme, sono quelle che fanno parte del tuo Paese delle Meraviglie. Sentiamo Federico. Federico. Buongiorno a tutti voi. Volevo parlare del mio paese delle meraviglie vissuto da giovane, il mondo diciamo dei viaggi, il mondo degli hippie, il mondo dei paradisi artificiali, ma vissuti diciamo in maniera anche molto naturale. Detto così fa una gran tristezza però. No, per niente, un bel ricordo malgrado tutto, anche non so... Sì, ma è stato talmente dilatato e raccontato che è un paese meraviglioso che ormai è viscerato della propria forza. Vabbè, sembra un po' Verdone che va a fare il figlio dei fiori. Comunque l'ascolto con attenzione. No, anche le esperienze vissute, non so, in mezzo alle montagne, sdraiati nell'erba, a vivere, a vedere tutto il mondo, diciamo, degli insetti ingigantito, le comuni agricole, il vivere il nudismo in maniera naturale, poi diciamo il sogno della rivoluzione, tutto questo che poi si è andato a scontrare. La grande spada di fuoco che dice Verdone, appunto, conferma. Poi invece lo scontro con la dura realtà della vita, della famiglia, del lavoro, poi più avanti anche della crisi economica, insomma della vita dura fuori da ogni fantasia. Grazie a Dio nel frattempo ho trovato quel Dio di cui parlava anche la scrittrice, che mi ha dato diciamo la forza di sopravvivere a queste durezze. Però il pensiero... Ha trovato anche Brosio, ha visto ultimamente Brosio il personaggio. Brosio, sì, ho letto adesso Brosio. È della Madonna, quindi... Come vede, è qualcosa che diciamo la capacità psichedelica delle persone trova varie forme poi di rappresentarsi. Io sono diventato musulmano, per cui diciamo la cosa è legata anche alle esperienze dei viaggi e del mondo diciamo delle droghe in Oriente. Però cioè lei sceglie la religione secondo lei quello che si fa. Prego. No, dico, sceglie la religione a seconda di quello che si fa. Se va in Messico e si fa di peyotle, diventa un cultore di Castaneda e di Don Juan, secondo dove va e quello che si fa, sceglie la religione. Beh, diciamo che mi attraeva quel mondo e lì ho trovato qualcosa che poi mi ha sostenuto quando mi sono scontrato con la vita dura di tutti i giorni. È l'unica cosa che mi tiene ancora su, perché sennò altrimenti... Vabbè, bocca al lupo, che sennò, se contiamo così, invece il Paese delle Meraviglie entriamo in quei gli inferni di depressione di cui parlava Silvana De Mari. Silvana De Mari, riprendiamo un attimo il punto. Le ho dato una piccola sventagliata di impressioni mie e dei miei ascoltatori. Certo, e Sbarco al film di Tim Burton. Se dovessi lasciare 100 film al secolo successivo, due sarebbero di Tim Burton, uno è Nightmare Before Christmas e l'altro è Alice. Avevo capito che le era piaciuto. Torniamo alla realtà. Lo psicotico è una percezione alterata della realtà, perché la realtà così com'è è talmente insopportabile che non riesce a leggerla. Il nevrotico è una percezione corretta, ma non gli piace, eppure arriviamo al saggio. Non posso scegliere quello che la vita mi mette davanti, ma posso scegliere come affrontarlo. Se magari perderò le gambe, non terrò l'attenzione concentrata sul fatto che non posso più andare a passeggiare nel bosco, ma terrò l'attenzione concentrata sul fatto che posso leggere o guardare film. E qui si arriva al quarto punto, quello di Tim Burton. E che cosa succede quando i due mondi non sono più rigidamente separati, o sei pazzo o sei sano di mente, non c'è nulla di intermedio. Cosa succede quando nel mondo delle meraviglie cominciano a entrare linee di logica, per cui questi vogliono vivere meglio e liberarsi di una regina malvagia? Finalmente ci sono linee logiche. E cosa succede quando il blu califfo esce per posarsi sulla spalla di Alice? Succede che noi arriviamo al fatto che noi siamo i creatori della nostra realtà. e che nulla è impossibile. E pensi, signora Mari, per quanto io l'apprezzi e le sia amico, a me quella farfalla, sua Alice, è diventata una strozzina navigatrice e lei riconosce il bucaliffo, mi ha dato una grandissima tristezza. Però siamo diversi, io sono molto legato al vero finale di Alice al Paese delle Meraviglie. Certo. Svegliati, Alice, ma quanto tempo hai dormito? Sai, ho fatto un sogno tanto strano. E la bambina raccontò le avventure che le erano accadute. La sorella l'ascoltò con interesse. Poi disse ad Alice: ora alzati, da brava. Vai a prendere il tè. Alice si alzò e corse via. Ma la sorella grande restò ancora seduta ai piedi dell'albero. Le sembrò di sognare a sua volta e vide sfilare davanti a sé tutti i personaggi del Paese delle Meraviglie. Vide il coniglio. Ringrazio Valerio Rocchetti, Fabrizio Intonti, soprattutto Silvana De Mari, anche se sul film di Tim Burton la vediamo lievemente diversi, ma nelle differenze è proprio la vera meraviglia di questo paese. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828-1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.